Hai a che fare con un manipolo di sacerdoti assistiti e sostenuti da lei. Contro tanti che si son lasciati sedurre dalle tue menzogne e allontanare da lei. Maria opporrà i suoi sacerdoti? Li rivestirà della sua potenza. Li renderà coraggiosi e forti nell'ora della grande purificazione. Ad essi affiderà il compito di difendere l'onore e la causa di Gesù e della sua Chiesa. Saranno essi che accompagneranno il Santo Padre sulla via del Calvario per vederlo vincere attraverso la croce. Questa sicurezza ci viene da lei e noi la viviamo con gioia. Maligno. Capisco. Tutto sulla falsariga delle scempiaggini di Fatima. Padre Mondrone. Appunto Fatima. Quando la nostra Madre Benedetta ha preannunciato per il Papa momenti terribili, gli ha anche promesso la sua speciale protezione. Essa lo difenderà per mezzo dei suoi sacerdoti, uomini forgiati nella preghiera e attaccatissimi al suo rosario. L'arma che ti fa tanta paura. Tu hai terrore invincibile di un prete che prega. Ne fai continuamente l'esperienza. Perciò ricorri a tutte le tue astuzie per distoglierlo dalla preghiera. Ora Maria sta preparando non un sacerdote, ma un esercito di sacerdoti che pregano. Questa Madre Divina non ci illude. Ci avverte che l'ora della battaglia verrà e sarà dura. Ma ci assicura che nel momento in cui crederai di assiderti come Signore del mondo e ti crederai sicuro vincitore, lei stessa interverrà a strapparti di mano la preda. Tu sarai detronizzato e alla fine la vittoria sarà di Gesù. E, per tua maggiore umiliazione, questa vittoria vuole ottenerla per mezzo di una donna. La vittoria di lei sarà il trionfo del suo cuore immacolato nei paesi dei senza Dio e su tutto il resto del mondo. Maligno! Come fai presto a sdrammatizzare? Aspetta che scagli contro di voi i miei uomini indemoniati. Li sto preparando e allenando all'attacco. Che verrà presto. Improvviso e inarrestabile. Padre Mondrone. Noi ci armeremo della nostra fede e staremo in attesa. Dio non ci lascerà soli. La sua e nostra madre ci proteggerà. Maligno. Ho già ottenuto di farli lavorare al coperto. Nessuno crederà che siano manovrati da me. Oggi nessuno più crede alla mia presenza nel mondo. Prova a parlare della mia azione in mezzo a voi. Ti rideranno in faccia. Padre Mondrone. Sì? Lo ammetto. In questo sei molto abile. Ma non tutti ci sono caduti. C'è chi avverte questo tuo nefasto lavoro in seno alla Chiesa e abbiamo ancora la forza della preghiera contro di te. Maligno. E vuoi che i miei si fermino di fronte a quattro gatti che biascicano preghiere? Padre Mondrone. Non sono quattro gatti. Sono sacerdoti di Cristo e non sono pochi. Tu lo sai. Chi durante la sua vita terrena ti cacciò via da tanti poveri indemoniati? Continua anche oggi a scacciarti per mezzo dei suoi sacerdoti. Le sconfitte che vai riportando ti sono ben note. Conosciamo la rabbia che ti assale quando un sacerdote ti scuote e ti ordina di andar via dalle creature che tu vai straziando coi tuo odio malefico. È un potere comunicato da Cristo e i suoi ministri. Nel mio nome caccerete i demoni. In questi scontri, tra il tuo potere e quello della Chiesa a noi comunicato, il tuo bilancio è assolutamente fallimentare. C'è un'esperienza che ti schiaccia. Maligno. Chiacchiere. Chiacchiere. Non vedi come tutto l'orizzonte si oscura? Aspetta ancora un poco che io scateni il mio uragano. Tremerete tutti come foglie sbattute dal vento e sarà la vostra fine. Padre Mondrone. Vedo che conosci molto bene la forza della natura. La potenza del terrore nel piegare gli uomini ai tuoi voleri. Lo schiavismo spietato con cui domini sterminate regioni è invenzione del tuo genio malefico. Dio ci attrae e ci stringe a sé con l'amore e ci impone un peso leggero. I tuoi? Invece. Li tieni soggetti coi pugni di ferro e col terrore. La paura è la forza del tuo governo. Che è governo di oppressione e di odio. Tu stesso l'hai detto. Noi non abbiamo motivo di tremare dinanzi alle tue minacce. Maligno. Sei troppo sicuro di te. Ma vedrai. Padre Mondrone. Possiamo temere tutto della nostra debolezza. Ma è proprio questa che ci fa ricorrere a colui che è la nostra forza. Noi sappiamo che in cielo c'è un Padre onnipotente che ci ama. È la rivelazione più tenera ed esaltante di Gesù. Con la fede in questo amore noi sfidiamo tutti i pessimismi che può ispirarci la visione di un mondo da te così orribilmente sconvolto. Sfidiamo tutte le paure che le tue minacce cercano di insinuarci per far crollare la nostra resistenza al male. Spirito malvagio. C'è Dio con noi. Mentre tu sei un maledetto da Dio. Noi abbiamo fede nell'amore. È questa fede che ti fa tremare. Perciò ricorri a tutte le tue astuzie per strapparla alle anime. Per vincerle hai bisogno di disarmarle. Qui il maligno mi scateò attorno un uragano di ruggiti bestiali. Ebbi la prontezza di ricorrere subito alla preghiera. Mi venne in mente quella dell'esorcismo già usata altre volte. Privatamente. E con successo. Ai termine di questa preghiera attesi che il maligno desse qualche segno di reazione al potere della Chiesa. Ma non si fece più sentire. Mi parve di uscire da un brutto sogno. Ero bagnato di sudore. Ma l'anima ritornò presto serena. Vidi incontro il senso del peccato. Mi ero appena appisolato. Dopo pranzo. Quando la camera fu inondata da un fetore da togliere il respiro. Mi guardai attorno. La porta e le finestre erano chiuse. Era un'aria mefitica che si muoveva come agitata da un ventilatore. Cosa può essere? Ma presto compresi di aver visite e invocai l'assistenza di Maria. Padre Mondrone. Questo odore è forse il tuo biglietto di presentazione? Maligno. Sì. Padre Mondrone. Non sapevo che un puro spirito si portasse dietro tanto fetore. Maligno. Ho appena soffiato sul lezzo di voi. Miserabili carogne. Padre Mondrone. Penso. Invece. Che sia il tanfo della tua essenza di peccato. Ma ora dimmi. In nome della tua grande nemica. Cosa vuoi? Maligno. Interrogami. Mi raccolsi per qualche istante in me stesso. Parlami delle astuzie a cui ricorri per sedurre le anime. Maligno. Hai bisogno che te le sveli io? Non sei maestro in Israele? Padre Mondrone. Eppure preferisco che me ne parli tu. Maestro di seduzione. Sembrava che non si decidesse a rispondere. Ma sentivo che era lì. Su. Ti impongo di rispondermi. Maligno. Non ci vogliono molte astuzie per prendere l'accio voi miserabili. Siete di una stupidità e di una fragilità che fa vergogna a colui che vi ha impastato. Di solito? Messi dinanzi a ciò che egli vi proibisce. Basta una piccola spinta. Padre Mondrone. Questo può accadere con anime sprovvedute. Che non hanno abbastanza timor di Dio. Che non ricorrono ai mezzi per vincere le tue sollecitazioni. Soprattutto se non pregano e non si tengono in contatto col Signore. Maligno. Queste me le pappo lo stesso. Basta conoscerne i gusti. Le tendenze. Le innumerevoli inclinazioni che tutti vi portate addosso e con le quali afferrarvi. La lussuria. L'ira. L'ambizione. L'invidia. La sete di denaro e di beni terreni. La maldicenza, sapessi quali servizi ci rende una lingua malefica e seminatrice di discordie. Invece le anime che mostrano maggiore resistenza non le avvicino mai con un attacco frontale. Le prendo con manovre di aggiramento. Oppure scavando il terreno sotto i loro piedi. Sollecitandone le passioni fino a stancarle e portandole all'esasperazione. Persuadendole. A poco, che certi comandamenti sono impossibili. Che il vostro padrone è un tiranno che pretende troppo. Che quella certa cosa non può essere peccato. Padre Mondrone. E l'astuzia che oggi stai sfruttando di più. Demolire il senso del peccato. Maligno. Ma anche qui i miei migliori collaboratori sono alcuni preti. Sapessi quanto mi è costato stancarli di star sen in quei loro casozzi ad ascoltare filastrocche. Così? Finalmente. Convincendoli a dire che la confessione non è necessaria. Sono riuscito a spopolare i confessionali e a mandare un mucchio di gente. Che è mia. A far scorpacciate di comunioni. Sapessi quante spudorate e quanti sporcaccioni. Che sguazzano nella lussuria. Fanno abitualmente la comunione. Dietro mio consiglio. Credendosi a posto. Padre Mondrone. Sono convinto che generalizzi e che contro i tanti che cadono in questa tua trappola. Ce ne sono tanti altri che ti sfuggono. Specialmente se sono anime che pregano e si sforzano di vivere in grazia di Dio. Non è forse vero che l'arma della preghiera ti fa paura e nei tuoi assalti ti fa indietreggiare scornato? Maligno. Devo ammetterlo. Ma quelli che ricorrono alla preghiera non li prendo mai di petto. Cerco a poco di disturbare la loro preghiera. Di distrarli con mille sciocchezze. Di portarli lentamente alla stanchezza e poi alla nausea. Intanto intensifico contro di loro le mie tentazioni. Contemporaneamente cerco di convincerli che lui non li ascolta. Che è inutile pregarlo. Che non ha ancora perdonato certi peccati passati perché si è abusato troppo della sua misericordia. Padre Mondrone. Due vecchio tranello. Prima fai cadere le anime nel peccato convincendole che peccato non è. O che comunque Dio perdona sempre. Poi? Dopo averle fatte cadere. Restituisci loro la vergogna di ciò che hanno fatto. Fai rivivere il senso del peccato e lo ingrandisci fino a far credere che per loro non c'è perdono. Prima la presunzione. Poi la disperazione. Due ottime vie per rovinare le anime. Con una sghignazzata carica di sarcasmo mi fece capire che avevo azzeccato. Resta comunque che la misericordia di Dio è infinitamente più grande delle tue astuzie e delle tue momentanee conquiste. Le anime gli sono costate il sangue di suo figlio. Egli conosce infinite vie per strapparle al tuo dominio. Maligno. Ti stai ingannando se pensi che quello là sia così buono. Padre Mondrone. Questa è, tra le tue insinuazioni, la più diabolica e la più bugiarda. Tu sai che Dio ci ama infinitamente. Che una goccia sola del sangue di Gesù basta a lavare tutti i peccati del mondo. Per te non ci fu e non ci sarà mai perdono. Ma per noi ci sarà sempre. Basta che noi non lo rifiutiamo coscientemente e ostinatamente fino all'ultimo istante. Egli, prima di lasciare un'anima nelle tue mani per tutta l'eternità, ricorre a tutte le risorse del suo amore che sono infinite. Tutto questo tu lo sai e l'onnipotenza di questo amore gratuito e redentivo che egli ha per noi è l'inferno del tuo inferno. Maligno. Stai facendo l'avvocato di una causa persa. Tu dici che egli sa tutto. Ma guarda dove arriva la sua perfidia. La sua cinica crudeltà. Sa che tanti di voi saranno miei. Eppure li crea lo stesso. Perché li crea? Per me. Padre Mondrone. Ecco un altro cavillo con cui cerchi di accalappiare anime. Ma basta credere fermamente all'amore per mandare all'aria queste tue insinuazioni. Dio ci ha creati destinandoci tutti a occupare un posto in paradiso. Per questo ci ha redenti e ci offre tutti i mezzi per far nostra la redenzione. Ma egli, che ha un rispetto sommo della nostra libertà, non obbliga nessuno ad accettare la sua salvezza. Maligno. Ora sei tu che stai barando. Padre Mondrone. Lasciami parlare. Il dono della libertà conferisce all'uomo un valore e una dignità così grandi che, se qualcuno ne abusa, Dio preferisce correre il rischio di lasciarlo liberamente e volontariamente perdere, piuttosto che privarlo del suo dono. E l'uomo che rifiuta a Dio il suo amore, non Dio che rifiuta all'uomo il proprio. Questo, anche per il dannato, rimane. Se Dio non può amarlo come amico, lo ama ancora come creatura. E questa certezza, come per voi demoni, anche per l'uomo che si danna è l'inferno dell'inferno. L'inferno sarà sempre, per lui, il paradiso respinto. Un paradiso rovesciato. Maligno. Tu non vuoi rispondere alla mia obiezione. Padre Mondrone. Sei tu che fai finta di non capire. La libertà? La misericordia? La sofferenza? Specialmente la morte del figlio suo. La comunione dei santi. La sua gloria eterna sono beni così grandi che giustificano abbastanza la perdita libera e volontaria di alcuni malvagi che si saranno ostinati a restare al tuo seguito. Maligno. Tu vaneggi e non mi lasci parlare. Hai detto che quello ha preferito correre il rischio di lasciar perdere. Padre Mondrone. Sì. L'ho detto. Ma egli ha fatto tutto quello che era possibile per attenuare, per scongiurare quel rischio. Egli poteva, è vero, ricorrere alla sua onnipotenza eliminando addirittura la persona soggetta a tale rischio. Ma Dio non si comporta come i vostri tiranni, che quando non possono piegare una volontà la uccidono. Egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Egli non ha voluto privare gli ostinati della loro libertà di scelta. Ha usato anche verso di loro un infinito rispetto. Ma, ripeto. Per impedire la tragica